abbiamo lo stesso tempo dovremmo andare nello stesso. Facciamo la prova a fare un giro banale, perché... Sì, ok, e vediamo, però devi barcare poi sempre le battute. Ma possiamo iniziare anche al secondo giro, non è questo problema, tu intanto non lo tieni. Thank you.